Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Gleb Papou, regista del film Il Legionario, al cinema da giovedì 24 febbraio 2022. Ben trovato. Buongiorno, ciao. Che racconto è questo? Parla di Daniel, un poliziotto del reparto mobile che un giorno scopre che la sua squadra della cenere deve andare a fare uno sgombero di un palazzo occupato, dove però vivono sua madre e suo fratello. E quindi lui, scisso fra l'amore per la propria famiglia e la fedeltà al suo corpo di polizia, dovrà scegliere come gestire questa situazione un po' delicata, anche perché la sua famiglia della cenere non sa che lui ha una famiglia dentro lo stabile occupato. Com'è nata l'idea di questo film? L'idea nasce dal nostro cortometraggio di diploma del Centro Sperimentale, scritto a sei mani con Emanuele Mocchi e Giuseppe Brigante, gli stessi autori poi del Lungo. Nel 2017 girammo questo cortometraggio, che in seguito fu acquistato dalla Clemart SRL, che ci produsse il film. Ti sei basato su una storia vera? No, è il film di finzione, è quasi tutto inventato, anche se ci sono degli episodi nel film tratti dalla realtà. Sottolineo, abbiamo girato il film dentro un palazzo occupato vero, ex Indap, che si trova in via Santa Croce in Gerusalemme, dove c'è Spin Time. E lì nel 2019 ci fu un episodio dove arrivò l'elemosinaire del Papa per staccare i sigilli della CEA, dopo che ACEA spense la corrente elettrica nel palazzo occupato. E questo episodio fu preso da noi, inserito dentro la sceneggiatura, quindi da quel punto di vista sì, ci siamo basati sulla realtà per fare un racconto anche più onesto possibile, però per il resto è tutto finzione. Anche se i poliziotti neri, ma anche di altre origini in Italia, li abbiamo incontrati, quindi non è fantascienza. In fase di scrittura, come avete lavorato? Tantissima ricerca sul campo. Ci siamo accostati al reparto mobile di Roma, soprattutto un celerino che ci ha fatto un po' da mentore, e stessa cosa con il palazzo occupato ex Indap, dove abbiamo passato tantissimi mesi, settimane, dove abbiamo anche addirittura dormito, per fare appunto un racconto più onesto, meno retorico e meno paraculo possibile, per studiare i due mondi che volevamo mettere in scena, senza ideologie o furbizie varie. Su quali elementi volevate mettere l'accento? Ma che è tutto un casino, che è tutto più complicato di quanto uno possa immaginarsi, soprattutto su questa cosa qui, perché prima di iniziare a scrivere il film, ognuno di noi tre aveva una propria idea sulle occupazioni, sul reparto mobile, reparto cenere. Le abbiamo lasciate a casa e abbiamo fatto tabula rasa, siamo partiti da zero, abbiamo iniziato a conoscere poliziotti, occupanti, e appunto studiare questi due mondi e imparando cose che nessuno di noi sapeva prima. Quindi abbiamo cercato di basare il nostro racconto sull'onestà, ecco, senza per forza far piacere a qualche parte specifica o ideologicamente schierata, perché non ci interessava. La scelta del titolo? Riguardo un po' in qualche modo il richiamo alla Roma multietnica di 2000 anni fa, quindi alle legioni multietniche, ai soldati multietnici che componevano le legioni romane, che prese collettivamente erano proprio una legione, però presi singolarmente erano dei legionari che dovevano combattere la propria battaglia. Ecco. È il tuo primo lungometraggio di finzione? Sì, è il mio primo lungometraggio di finzione, esatto, il mio esordio cinematografico. Com'è stato il passaggio? È stato un bel battesimo, perché il film l'ho girato in 19 giorni durante la seconda ondata della pandemia Covid, quindi non avrei potuto chiedere di meglio. E per la distribuzione che scelte avete fatto? La produzione era in cerca di una distribuzione, la Fandango ha visto il progetto e gli è piaciuto e ha deciso di prenderlo come distribuzione. I diretti interessati, sia per quanto riguarda le occupazioni che per quanto riguarda le forze dell'ordine, lo hanno visto e ne avete parlato? Ancora no, adesso del 24 spero che lo vedranno e ne riparleremo, anche se il cortometraggio da cui è tratto il film all'epoca era piaciuto ad entrambi. In quante sale sarà? Ancora non lo so. Per saperne di più ci sono dei riferimenti web, pagine social, siti internet? Fandango, basta seguire Instagram, social, Facebook della Fandango e loro promuovono il film. Uno può trovare tutte le ultime informazioni inerenti al film guardando i social della Fandango. Il film Il Legionario al cinema da giovedì 24 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Gleb Papou. A presto! Grazie, grazie a tutti. Ci vediamo il 24 febbraio. Con Luca Terri, autore del documentario Infodemic, dal 18 febbraio online su YouTube. Ben trovato! Grazie mille. Cos'è questo lavoro? È un progetto che è nato principalmente nel 2020, quando abbiamo assistito veramente a un mare di informazioni che fossero verificate o no, plausibili o meno, che ci ha investito completamente. È stata definita un'infodemia e quando noi abbiamo una situazione di questo tipo, noi arriviamo veramente a non riuscire più a identificare una cosa come vera o come fake news. E quindi assieme a Matteo Foresti, che poi è stato anche il regista di questo progetto, abbiamo ideato una specie di documentario che in realtà è per metà un podcast e anche per una piccola parte un vlog di viaggio. Abbiamo deciso di appunto creare questo viaggio all'interno di quello che è il mondo dell'informazione e delle fake news, cercando di capire poi perché cadiamo nelle fake news, quali sono stati le più grandi bufale o complotti nei vari decenni, fino ad arrivare poi al tema della crisi climatica, che è la principale sfida che dovremo affrontare e su cui dovremo prendere delle decisioni che siano consapevoli. Quindi da qui l'idea appunto di cercare una nuova consapevolezza attraverso questo viaggio. Uno dei problemi principali è quello della pigrizia rispetto alle fonti delle notizie, giusto? Sì, da un lato è vero, non c'è la voglia, magari il tempo o la possibilità di controllare tutte le fonti, dall'altro purtroppo c'è il problema che i media, ufficialmente per dare una completezza di informazione, in realtà perché alle volte fa più polemica, più click, più audience, tendono a riportare tutte le campane possibili, anche quelle che non hanno una reale sensatezza scientifica o anche solo logica, perché appunto fanno discutere e quindi vengono riportate tutte. E nel momento in cui io per ogni singola notizia sento 2, 3, 4, 5 versioni contrastanti fra loro, diventa poi difficilissimo e non ho neanche la voglia di andare davvero a cercare quale sia la fonte più adatta e quindi poi mi affido a quelli che sono delle mie scorciatoie mentali, che vengono chiamati bias cognitivi, che sono praticamente dei pregiudizi che ognuno di noi ha nella nostra mente, mi affido a questi per cercare di capire a quale notizia fare affidamento. Il problema è che spesso queste scorciatoie ci portano a cadere poi nelle fake news. Quali interlocuzioni avete scelto e come si articola il documentario? Il documentario parte da Bergamo, che è stata forse la città simbolo nella prima ondata della pandemia, di questo mare di informazioni verificate o no che è stata l'infodemia, e da qui attraverso Alessandro Masola, che è un esperto di comunicazione perché ad esempio ha uno dei principali canali di YouTube Italia per quanto riguarda proprio il giornalismo e le informazioni, con lui siamo andati ad analizzare un po' come le fake news nascono e si diffondono, e in quel momento poi siamo passati a parlare con Massimo Polidoro, che è il segretario nazionale del CICAP, l'associazione fondata da Piero Angela 30 anni fa oramai per identificare appunto le pseudoscienze e il paranormale. Abbiamo cercato di capire con lui quali siano appunto questi bias cognitivi, queste scorciatoie mentali che prendiamo, e da lì abbiamo cercato i grandi complotti e le grandi bufale decennio per decennio, a partire dagli anni 70, in cui abbiamo identificato il falso allunaggio e abbiamo parlato con Adrian Fartade, uno dei principali divulgatori italiani per quanto riguarda lo spazio. Negli anni 80 abbiamo identificato il tema degli OGM, che tuttora ci portiamo dietro, e quindi assieme a Stefano Bertacchi, che è un ricercatore di biotecnologia, abbiamo identificato appunto quelle che sono le fake news sugli OGM. Siamo passati agli anni 90 con il tema dei vaccini, che comunque ci portiamo ancora dietro, e l'abbiamo analizzato con Roberta Villa, che è una giornalista scientifica che segue proprio i temi salute e ha un grosso seguito proprio su queste tematiche. Poi, anche tramite l'aiuto di Luca Parmitano, astronauta dell'ESA, siamo passati al tema ecologia e quindi al tema clima, e qui l'abbiamo analizzato con un'esperta della BCE, Laura Parisi, che ci ha spiegato anche cosa viene detto sulla transizione ecologica, che non è del tutto reale dal punto di vista economico. Siamo andati a trovare un'azienda che fa green economy, che è Tridom, e quindi ci siamo fatti spiegare come si può fare green economy, e tra l'altro poi Tridom ha donato, visto che pianta alberi come lavoro, ha donato una foresta per riassorbire tutta la CO2 prodotta durante il documentario. E poi assieme a Serena Giacomin, partendo proprio dal tema clima, siamo andati con lei, che è la presidentessa dell'Italian Climate Network, a scoprire uno dei ghiacciai alpini più in crisi per quanto riguarda il cambiamento climatico, che è il ghiacciaio del Morteratsch. Lo abbiamo percorso in avvicinamento assieme a lei per cercare di smontare quelle che poi erano le fake news sul clima, e anche cercare di capire come queste stanno immobilizzando la società, impedendoci di affrontare questa minaccia. Avete individuato attitudini virtuose per approcciare le notizie? Sì, diciamo che abbiamo cercato di capire come identificare una fonte affidabile. Esiste questo principio che si chiama principio di Belzebù, che ci dice che quando si è in dubbio tra una fonte e un'altra, probabilmente la fonte più affidabile è quella che ci perde di più a dirci una determinata cosa. Esempio, visto che abbiamo parlato del falso allunaggio, chi è che ci ha perso di più dal falso allunaggio? I sovietici. E i sovietici, che avrebbero avuto tutte le ragioni per denunciare questa truffa dell'allunaggio statunitense, cosa hanno fatto? In realtà i sovietici hanno confermato più e più volte l'allunaggio statunitense nel corso della storia. Quindi, seppure loro, che avevano tutta la volontà di battere gli Stati Uniti, non hanno accusato gli Stati Uniti di truffa, per principio di Belzebù sono una fonte affidabile, e quindi perché dovremmo accusare noi gli Stati Uniti di un falso allunaggio? Per saperne di più ci dai tutti i riferimenti web del vostro lavoro? Intanto, per avere notizie su tutto il progetto, potete andare su www.infodemic.it e lì troverete delle news per quanto riguarda appunto il progetto. Troverete il link ad esempio ad Amazon Prime Video, su cui potete vedere il documentario. Il documentario che potete in realtà vedere anche sul canale YouTube di Barbascura X, che è l'altro autore e co-conduttore assieme a me del documentario. E infine troverete anche, sempre su www.infodemic.it, il link alla foresta che abbiamo creato appunto per assorbire la CO2 prodotta durante il documentario, in cui in realtà abbiamo invitato tutti gli spettatori a piantare un alberello, perché anche guardare un contenuto in streaming online può produrre CO2, e quindi l'idea era rendere la diffusione di Infodemic il più ecosostenibile possibile. Quindi, se volete darci una mano, lì trovate il modo di farlo. Documentario Infodemic, online gratuitamente dal 18 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autore Luca Perri. A presto! A presto, grazie a voi. Con Paolo Pisanelli, coregista del documentario Il mondo a scatti, in tour da mercoledì 23 febbraio 2022. Ben trovato! Ben trovato Federico, ben trovato a tutti gli ascoltatori e a tutte. Ce ne parli? È il film infinito. È il film che con Cecilia noi abbiamo cominciato a pensare nel 2016. e abbiamo cominciato a lavorarci. L'idea era quella di fare un viaggio nelle immagini e anche nelle trasformazioni delle immagini, di quelle fisse, delle fotografie e delle immagini in movimento. All'inizio era un qualcosa che doveva riguardare l'esperienza di tutti e due, entrambi prima fotografi e poi cineasti. Però a un certo punto io ho pensato che fosse più importante dare più spazio a tutto il percorso di Cecilia, che evidentemente non solo è stata la pioniera del documentario, come viene detto, oppure comunque la prima donna a realizzare documentari nel dopoguerra, ma è anche stata fotografa di strada tra il 52 e il 66 con il viaggio in Vietnam. E mettendo a posto questi reportage intanto di Cecilia che ci facevano un po' da spina dorsale in questo viaggio, continuamente abbiamo preso delle deviazioni, abbiamo raccontato alcune cose che io ritenevo fondamentali e spesso spingevo Cecilia, anche la invitavo a raccontare queste esperienze, perché abbiamo cominciato facendo dei piccoli reportage in forma audiovisiva dei suoi viaggi, quindi il viaggio a Lipari e Panarea, il viaggio nelle cave di Comice, il primo reportage, e di lì poi via via i viaggi al sud, nella Firenze di Pratolini, perché lei fece i sopralluoghi fotografici e poi un documentario e si intitola proprio Firenze di Pratolini, la Milano del dopoguerra, e fino ad arrivare trovammo poi una grande scoperta, di quella ne abbiamo già parlato, fino a trovare due scatole di scarpe dimenticate piene di negativi 6x6. Lei aveva utilizzato solo una trentina di quelle foto e invece ne saltavano fuori più di 1000. Quindi in questi anni prima di arrivare al mondo a scatti abbiamo realizzato 3 cortometraggi e 3 documentari, di cui appunto il mondo a scatti è l'ultimo, per questo dico è il film infinito. Però è un film che poi non riguarda solo Cecilia, riguarda sicuramente anche me, ma riguarda proprio la trasformazione delle immagini, ma anche del tempo di fruizione delle immagini. Cioè arriviamo fino un po' a raccontare anche questo avvento del digitale e la tempesta di immagini in cui poi siamo immersi ora, no? E in cui c'è un uso così, attraverso i cellulari ci sono moltiplicate per 1000 e 1 milione di volte. Ogni ora nel mondo vengono prodotte milioni di immagini da tutti e quindi è cambiato totalmente l'approccio all'immagine e anche il tempo, e anche non è più un'immagine analogica, è un'immagine che subito istantaneamente possiamo vedere, a parte che appunto poi i cellulari sono oggetti multitasking che fanno di tutto, fanno anche video in alta definizione ormai, quindi c'è una sfida un po', anche una sfida di Cecilia che affronta questo avvento del digitale, e c'è anche però una curiosità, una voglia un po' di metterle un po' a confronto queste immagini, anche se partiamo da un'immagine che è fondamentale nel film ed è un'immagine di facce, una folla a Rutigliano 1956, facce stupite, quasi tutti uomini, solo 3 donne. Era una sera di festa in questo paese della provincia barese, Cecilia in jeans e macchina fotografica si mette alle spalle del direttore della banda musicale sopra una cassa armonica e tutti gli occhi vengono calamitati da questa donna e da questa macchina fotografica. Ecco, quella foto e la sua trasformazione è stata fondamentale un po' per fare poi questo lungo viaggio. Com'è stato il lavoro con lei per organizzare questo documentario? Bello, quasi si alternano quelle che sono delle riflessioni sulle fotografie a delle esperienze un po' di vita, esperienze di presentazioni, di viaggi in giro per il mondo, che con l'archivio di Cinema Reale, con la festa di Cinema Reale, Officina Visioni, abbiamo organizzato già dal 2007, noi ci siamo conosciuti nel 2005 alla festa di Cinema Reale con Cecilia, e poi dal 2007 è cominciato dei tour, dei viaggi a presentare, a far riscoprire, no, il cinema di Cecilia e di Lino del Fra, perché loro erano una coppia nella vita e nel lavoro. Firmava uno, firmava l'altro per varie ragioni, anche per i premi di qualità, potevano ricevere i documentari. Ecco, è stata un'occasione per farlo conoscere in tutto il mondo e devo dire che a partire da Parigi e poi il Canada c'è stata un'attenzione enorme. Noi abbiamo fatto lo sforzo di sottotitolare tanti film, i film degli anni 50, 60 di Cecilia, poi non solo in francese ma anche in inglese, poi sono stati tradotti in tedesco. Insomma, con 2 scatole dimenticate, il film sul Vietnam, Questi film sono andati, e questo film in particolare sul Vietnam, sono andati a Taiwan, a Pechino, in Corea. Quindi nel film ci sono questi viaggi, soprattutto il viaggio in Canada, quelli a Parigi, Vienna, c'è il viaggio bellissimo a Teheran, in Iran, e anche un po' così, il confrontarsi con culture diverse. Importantissima la scena in cui Cecilia, per esempio, non vorrebbe accettare di dover indossare il velo. Lei ha realizzato essere donne sul lavoro femminile in Italia e quindi, insomma, il suo punto di vista. Poi con Lina hanno fatto anche Comizi d'amore 80, ripercorrendo un po' il Comizi d'amore di Pasolini, e quindi il suo pensare, il suo raccontare suscita sempre moltissime curiosità, anche molti stimoli, no? A pensare un po' a quelle che sono state le trasformazioni della cultura e anche dell'uso delle immagini. Nel salutarci, Paolo, ci dai tutti i riferimenti web per sapere le tappe di questo tour? Il film è distribuito da Luce Cinecittà, inizia a Lecce e continua poi in Sardegna, va a Cagliari, a Sassari, a Nuoro e poi a Roma, al Cinema Farnese del 28 febbraio 1 e 2, poi ci trasferiamo in Lombardia, in Liguria, sarà pubblicato a brevissimo tutto il calendario completo e stanno arrivando anche moltissime richieste anche dall'Umbria, dall'Emilia e da altre regioni. Poi chiaramente torneremo anche in Puglia. www.lucecinecittà.it e anche www.cinemadelreale.it. È importante anche sottolineare che in questo momento, oltre a queste rassegne e tour in giro per il mondo, in Italia, a Bari, nel Palazzo del Consiglio della Regione Puglia, c'è una grande mostra antologica allestita, curata da me, da Claudio Domini, e curata da Officina Visioni con l'Archivio di Cinema del Reale, proprio su Cecilia Mangini, Visioni e Passioni. E il film Il Mondo a Scatti sarà nella rassegna a Los Angeles, che segue quella dedicata a Pasolini. Ci sarà una rassegna dedicata a Cecilia Mangini con Il Mondo a Scatti, Due Scatole Dimenticate e altri film nella Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles, nel palazzo ideato e realizzato da Renzo Piano. Il documentario Il Mondo a Scatti, in tour da mercoledì 23 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento al coregista Paolo Pisanelli. A presto, Paolo. Grazie, grazie Federico e grazie a tutti. Con Michela Greco di Emergency per presentare l'iniziativa Con i miei occhi, storie afghane, documentari e incontri in tour per tutta Italia dal 15 febbraio ad aprile del 2022. Ben trovata! Grazie, grazie, sono contenta di essere qui con te e con voi. Un'iniziativa articolata, raccontiamola. È un'iniziativa in cui ci ha coinvolto, e quando dico ci parlo di Emergency naturalmente, ci ha coinvolto DocKit. Qualche tempo fa ci hanno chiamato e ci hanno proposto appunto di lavorare su una rassegna di documentari afghani e abbiamo subito accolto con entusiasmo questa proposta, perché è importante, importantissimo per noi e per tutti, penso, che non si tenga alta l'attenzione sull'Afghanistan, sulla sua situazione, sulla sua storia, e questa è una bella occasione per farlo attraverso il cinema, appunto con un partner così importante come DocKit. E poi la cosa bella è anche proprio l'identità di questa rassegna, come dicevi si intitola Con i miei occhi, storie afghane, cioè sono storie raccontate da documentaristi e documentariste afghane. Quindi vedremo diversi film nel corso delle prossime settimane, con alcuni eventi che sono anche associati a talk, dibattiti, convegni. Il primo c'è già stato martedì 15 febbraio, è stato un momento importante, tra l'altro il 15 erano i 6 mesi dalla presa di Kabul, quindi era un momento importante, no, per fare il punto su che cosa è successo e che cosa sta succedendo in Afghanistan. E appunto continueremo a raccontarlo attraverso il cinema e attraverso altri incontri. Lunedì 28 alle 21 al Cinema Truiti di Roma, che è un altro partner di questa iniziativa, ci sarà un'altra serata evento, sarà proiettato il documentario Rockabull, che racconta la storia della prima e probabilmente unica band di metal afghana, preceduto dall'incontro con il regista e con uno dei membri della band, e poi seguito da una chiacchierata incontro con la giornalista Cecilia Sala, un rappresentante di Emergency che è Luca Radelli del Field Operations Department, e con altri ospiti che insomma daranno i loro contributi. E poi un appuntamento importantissimo sarà l'8 marzo, naturalmente la data simbolica della festa della donna, dove verrà proiettato un film importante in diverse sale, nello stesso momento in una rete di sale, e il film è A Thousand Girls Like Me di Sara Mani, una storia drammatica, una storia durissima ma importante, rappresentativa, perché racconta di una donna afghana che ha deciso ormai diversi anni fa di denunciare quello che le stava succedendo, cioè il dramma dell'abuso da parte di suo padre. È una storia estrema, come si capisce, che però permette anche poi di mostrare, di raccontare come fosse e sia difficile per le donne afghane prendere parola e raccontarsi e difendersi e mostrarsi anche in situazioni meno estreme di quella. Quindi insomma è un film importante, e l'8 marzo sarà proiettato in diverse sale. Un'iniziativa in divenire dal nord al sud, dalla città alla provincia? Sì, ci saranno tante città, come dicevi tu, è in divenire, stiamo finendo di raccogliere le adesioni, comunque ci saranno tante città, sì, sicuramente dal nord al sud, appunto l'idea è cercare di arrivare più persone possibile, fra i partner c'è anche tra i documentari, c'è appunto il cinema La Compagnia di Firenze dove si è svolto il talk del 15 febbraio, insomma stiamo cercando di fare rete il più possibile, anche poi appunto con le sale che accoglieranno i film per portare questo racconto e questo discorso a un pubblico più ampio possibile, appunto. Ci sembra veramente importante non abbassare il livello di attenzione su questo tema. Ecco, anche per sapere tutte le realtà che partecipano, ci dai tutti i riferimenti web? Sicuramente sul sito della rassegna, che è www.conimeiocchi.org. Lì si trova tutto il calendario con tutti gli eventi, le iniziative che sono in programma, e quindi sarà aggiornato continuamente perché, come dicevamo, è in divenire, e tutte le informazioni si trovano lì, orari, ospiti, film proiettati, insomma è tutto su www.conimeiocchi.org. La rassegna di documentari e incontri Con i miei occhi, storie afghane, in tour in Italia dal 15 febbraio ad aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento a Michela Greco di Emergency, che è uno dei soggetti che organizzano la rassegna. A presto! Grazie, grazie a voi, ciao! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.